Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit V&S. Musik. Heimspiel. Thank you. Internet VSendS. la tierra, profundidad de la montaña, alma de la guerra. Misterio de la tierra, profundidad de la montaña, alma de la guerra. Thank you. der ganzen Welt. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. Vieni a ballare per far niente. faccia a faccia con te. Vuoi la verità? Ma per quanto tempo? Quanto dura il sogno? Quanto tempo, quanto tempo? Prima di svegliarmi. Quanto tempo, per dire la verità? Quanto tempo, quanto tempo? Per cercarti. Quanto tempo, quanto tempo? Per dire la verità. Quanto tempo, quanto tempo? Prima di svegliarmi. Quanto tempo, quanto tempo? Per dire la verità. Quanto tempo, quanto tempo? Per cercarti. Quanto tempo, quanto tempo? Per dire la verità. Dein Wochenende, dein DJ-Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit VZS. We'll be right back. Tell me, did you feel the same? Do ya, do ya, do ya, do ya. imperfect. If that's true, our world seems really defect. Barely any people. A few assessed for action. And what we call attraction is a constellation of looks and fame. You're not admired for a life full of memories, but for how powerful you are when fighting your enemies. The way you be and what you see don't really matter in this world of ours, as long as you have other powers. As you have other powers. As you have other powers.